Buonasera. Buonasera anche a lui. Beh, cosa stai combinando? Nulla, sei bugiardo. Dovete cambiare a capo garetto di freddo. Ma un momento, c'è fresco, Un po' di accento, vai. Sì, adesso c'è gazzettini che entri. Abito ancora, ma è alta la serrata. Certo, magari lo dici. No, poco fa stava entrando un po', adesso mi si è calmato, ora va a entrare di aria a casa. Per aiutare non si proprio io, se gli ho lasciato un po' di rumacone, chissà se ne entra un po' garito. Ecco di vino è entrato un poco, ma con poco. Speriamo. Casa c'è solo. Che poi ci vuole, che cosa vuoi pretendere? Tutta l'ora è copiato, per 10 giorni siamo così. Ma tutti questi mesi, fate in casa, poi non pensi che te la mattina. Poi non ne fa bisogno, sta sempre faticando, per lo meno. Ti dico che in settembre fa un bel di casa così. Ma che me ne dirà bene, ma cosa vi dite di già? Lo senti poi di tipo, voglio un freco a Maragana, no? Se non fermo noi un freco. Infatti, a partire di un freco, sei tranquillo. Ciao, mirai le percentrità per cui bisogna fare un... Io prima in questa cameretta, prima di coricarmi una mezz'ora prima, anche se il condizionatore, l'ho rinfrescato tutto. Da un po' di sicuro, ci sono entrato, ho disturato e mi raffreco. Però da un po' di 10 minuti di ragazza, allora ho steso la ventola. E con la ventola si riuscì a riposare da un po' bene. Infatti, scappano uscire la notte, tirate un breco con i macchinari. Però chissà ora, ogni tanto vedi qualcuno che si posa in carriera a Taurio, magari 4-5 persone si pigliano un freco fino a 2-3 minuti. Ma questo non è freco, questo è un militare. Beh, pensai magari ancora no. Che notte fu presente di notte, eravamo lì la mia figlia che ha fatto, si era comprato il figliolo e fino a un certo punto che era scatti a me, da poi ho cominciato a vestire un po' come mi sentai. Allora io adresso, io. Sì, a una certa ora ho iniziato a lamentare, io quando mi do il braccio non intendo che vada l'umidità. Mi fa scattare l'intervista e io adresso, che si ho vinto, subito si becca. Infatti così, quando c'è umidità bisogna ritirarsi. Però non è lento, resto. Le macchine sono sempre asciutte, perché questo mese è un mese asciutto. Ma stamattina già si vedeva un po' che era un po' di umidità è scesa. Quando era bagnata, la capotta era bagnata. No, io sono uscito dalle 6, invece qualche cosa perché sono sceso in campagna. Ed era asciutta la macchina, è strano. Non c'è dove sta proprio a bagnare le macchine, capito? Sì, no, ma è un po' scesa. Adesso le tre ha iniziato a scendere un po', che la gente già io, intendia Rubreco. Rubreco, ma rubrezzai che ha il fondo della macchina pure. Chi c'è Rubreco su rubrezzai? Il fuso, capito? Lì c'è chi fa di male più. Vabbè. Comunque, è meglio evitarla. Se non le malati le tenete di sicura. Infatti. Meglio evitarla un po'. Io non credo che... Poi vediamo. Sì. Ah. faccio prendere, tiriamo il tempo, quasi caccia, tiriamo il tempo. Ah, non sei mai contento, sto. No, l'umidità che ti muovo, ecco cosa è. Farò un gaggio, farò un freddo, non me ne affrutti nulla. È l'umidità che ti muovo. È un freddo, uno. Si zappa. Cazzo, è a dove? Cazzo, mai detto che tu, quando ti umidizzai, cazzo, l'incendio. Ah, che caldo, caldo umido mi fa di male, capito? Infatti, chi su? Caldo umido fa di male, sì. Allora non c'è con gli occhi gli anni. Allora mi resta a trattare un ricimo. Ma così tocca l'usa, tipo. Ma dici, mi si muore in campagna senza luce, la macchina me ne tocca. Andiamo, bubù. Oioia. Certo. Ma ieri sera non c'eri, no? No, siamo in distacco, effetto lì. Sto cercando là. Sto cercando lì. Ah, c'è un carbotto là. La figlia pensa lì. E per cui eravamo in festa, dai, si era incontrato il mio riportino, piccolino, capito? Sì, era, anche per la Natalino, era. Dopo vedere un Natalino è il vicino, poi il vicino ce n'è andato, siamo rimasti in due. Da chi era? Gianni, non è no, c'ho il vicino qua che c'ho, come ti si chiama? Emanuele. No, non ho accesso, perché siamo in fretta, mi sembra che erano le serie, una cosa del genere. Per cui io, no, non c'ero, è tutto lì. È stato una cosa improvvisa, per cui siamo dovuti andare, dai. I nonni, cazzo, si cercava sempre, dai. Infatti, i nonni cercano sempre. A che sale che devi... Se compreranno devi fargli un regalo. Beh, questo non manca mai, questo. Cazzo. Bisogna concertarlo. Cazzando il minorino non regalava niente di tutto, mai niente, cazzo, avanti non c'è un regalo, non sta metà. Infatti così, se ti regalo non puoi iniziare, vabbè, se ti prende, lo fermo, dopo che non la prende, mi si dispiace, non prende. Certe volte quando lo finì si fa un sacco di tutto e di forse bisogna accontentarli, poco a poco però bisogna accontentarli, oggi già sono molte cose che costano poco, per cui bisogna accontentarli. Vabbè, sì, che ci riesce uno lo fa, voi lo riesco, ma insomma per lì. Noi avremo un bel di forse. Nipote è pro nipote, so. E come si fa a regalare uno? Regalare esatto. Faccio per i nipoti che abbiamo noi. Immagina. Guarda, io non giù. Una che compie gli anni il 18 di questo mese. Quindi, pensa un po', un regalo. Eccomi. Ai nipoti regali, ai pronipoti anche regali, io devo il fatto. Che cos'è, è buffi carità. È così, bisogna, quando fate i compleanni bisogna fare un regalo. Purtroppo è così. Vabbè, ma con gli auguri male il fatto, però vero. Allora, i sentinelli non si usava tanto di cose. C'è va onomastico, compleanno, eccetera, eccetera. E mi vuoi sentire là. A me mi dice che è un compleanno mio, mi dice di... Vabbè, ma dove andiamo? Dio. Che lungo andiamo? In campagna, che lungo? Anche noi l'abbiamo fatto. Adesso va... Non si rispetta, si porta, lo cazzo, porta a qualche posto, per cui... questo, mi va ancora da spago, vabbè, ma se trattivo la casa, questo è pulita. Purtroppo è così. Quando da che non si deve fare il compleanno a che cosa, è battissimo, vedi, bisogna farlo andare. Bisogna fare sì, perché almeno li accontentiamo, dai. Per cui ma ti ricordo che siamo stati bene, si stava bene, dai, perché c'erano i gazzetti grandi, i lunghi, cazzo, mi sembra che ho 7 mesi il gazebo lungo con il fatto, siamo stati bene. No, da poi a giocare un comitato per tuo mondo, se hai sentito come stai, capito? Sì, noi, vabbè. Da una certa ora si stava benissimo. Di giovane magari, cazzo, ha buttato la maglietta, lui è stanuto, cazzo, è tranquillo. E noi di altro a farsi, anche se si vede la malinconia. No, io sei a Roma, già tranquillo. Andrà in giro, mi pensavo per queste cose. Cazzo, come si ricordi, questa va a un settentare, si rinda a fare, questa mettere a luce, all'umanizzare. Anche se non metti gli attacchi, già vedi sono già, e metti ancora da raddoppiare gli attacchi, sono i cazzetti. Ah, infatti. Interesse nazionale, per quanto ci... Sì, vabbè, come ti vedi, la vedremo. Se vi è cresciuto e mi dai, ti tappiamo un po' caretto. Appurava, da che giova il ventilatore acceso. Era, poi l'avevamo acceso. Ho acceso un po' il ventilatore, ha giù fatto un po', da poi mi sono un po' caldo. Però ripeto, da fuori come c'era mi la defigura, carriera, diciamo. Ah, i nonchi si moriva di rugare, chi dai c'è di avere? Vabbè sì. Fate così, se già si sta bene. Sono un po' fuori, sta bene. E io sarei lì che a te si viva, c'è la verità, era di manca, per cui. Però in una pallasca per sempre mi dai, capito? Sì, credo sì, non mi dai per sempre in chiesa. Ma è salvato, è più aperto. E rimane attaccata sotto al monte, vicino al monte, sotto. Sì, io non so quindi è, io non so sì. Però si entra via Marginucci, capito? Sì. Via Rubassamo, via Rubassamo. Via. Già andavo così. Manuele, certamente il travaglio, è travagliato, è coccato il travaglietto. Sicuramente sta lavorando. Io se l'ha già passato. Allora se è stato il assaggio arriva la sera, sono a salino. Ho chiuso alle 8:15 abbiamo chiuso. Quindi. Ha chiuso lui, ho chiuso io. Sempre la maggiore, evidentemente ti fa arrivare un bel ancora il tuo storia. C'è sempre la maggiore, Infatti. Non andiamo in nessun aria noi andiamo. No, a momenti ogni tanto appena entra. Io faccio la ventola spesa adesso. Io sto la ventola spesa, sto anche la finestra aperta tutta. Mi dice, ma chi sta di me, amanda? Sto la ventola. Io comunque la ventola che ha 5 pale, e sta 80 centimetri sono le pale. Già ne fa fresco, E ce la metto a 2, spegge ancora, fa di più aria fredda, ma a 3 invece. È normale sta di me. Sì, no, come la metto io la metto a 2 la metto, anzi a 3 si cambia solo. A due tira troppo e scappa e si ghiaccia il galaxy, capito? E per cui a tre va benissimo, va. Rimane una, insomma, l'arietta un po' freschina, si fa di me. A 24 gradi lo metto sempre. Quanto? A 24 gradi. La ventola? No, la temperatura la metto a 24. Ah, e quando accendo il condensatore? Non so, a qualche aspetto è uguale. È fresco qua, fa di mezzo fresco, poi la cameretta è minore, tocca ancora la batteria, cazzo, per cui la tengo prima di entrare, capito? Una mezz'oretta in più, dopo la tengo, se no lo metto più freddo, aspetta e guardo quanto è. E quando accendo la vedi, vabbè, ah, cazzo, prendo quasi, atta. Piace già un muro di muri, che sera è? Io a 20 non lo metto mai, lo metto a 24 e raffredda parecchio lo stesso. A 20 il trucco, tata, sì, fase freddo usci. Allora si fa la polizia a 24. A 24 va benissimo, è a temperatura costante, fresca ma costante, non ti fa male così. Già provo così a 24. Se sta rossi, mi fa caldo, è bello caldo. È una mezz'oretta di alla 13 e lo metto a 24, mi dà un po' com'è. Io lo metto di vento, la metto a 3, però la temperatura la metto a 24, tanto se rinfresca, è rinfresca, la tengo così per un bel po'. Senza volte, all'inizio quando quei giorni faceva caldo, quando in maggio, in giugno, che ha fatto un bel di casa, ti ricordi? Infatti è così. Allora l'accendevo parecchio. Certe volte stavo anche durante la notte, c'è pazienza, certo, è pazienza, non mi capisco, faceva strada a caldo, certo. Per cui, però, adesso sta accendendo un po', adesso lo faccio così. Prima di coricarmi lo accendo, una mezz'oretta, rinfresca tutto e dopo lo tengo e posso stare tranquillo. No, perché ritorno in caldo, accendo la ventola e lascio la ventola anche la notte accesa. La ventola, per cui ci arriveremo a te. Io lo tengo a 24 e ci puoi rimanere. Non ti dà quel freddo, a 20 è troppo, la condensa dell'acqua ti fa parecchio acqua, ti fa parecchia condensa, ti fa. Ma lo sai che lo sai, le alette del condizionatore, il risalto lo sai qua, praticamente tocca proprio davanti dove sono coricato io, cazzo. E certe volte invece il cucino però si congela lo stesso, ma la so. E per cui adesso come sta 24 e vediamo un po' com'è la situazione. Se va bene la sta 24. Io la metto a 24 e la fredda è a 24. No, ci rimani dentro. Cose così. Infatti non dicono di non metterlo, la temperatura sua è 24, 26 va bene, no, 24 va benissimo. E qua la cameretta piccola, capito? Magari l'altra parte, le camere in sala, lì le camere sono un bel grandi e va bene, ma qua la cameretta è piccola e per cui... in mezzo sarà si rinfresca tutto e cazzo e il travare di qui, capisco ciò, ecco. E allora al momento faccio come l'hai detto, a 24, la metto a 24, va. Io anche in sala che è grande, che sto usando quello condizionatore. è quello grande da 12.000, lo metto a 24 e raffredda benissimo, raffredda, a buia. Questo sto da 900 sto, io ne ho 4 da 900 e quello che c'è in sala quanto, da quant'è? Quello che c'è in sala, da 12.000 ce l'ho. Certo, lì si frega di più ancora. Certo, questo io ne ho 4 a sta tutti da 900, capito? Ma va benissimo sto, vado bene. Per me anche in sala, in camera, sono tutti da 900, ma non so come prendere in sala e in camera. Ma perché la camera è piccola e per cui bisogna fare così come hai detto tu, a 24 perché è piccola. E poi tocca proprio dove corico io, non sollevo di più le alette, capito? Ci sarebbe salvato le alette, va bene, tocca la parete, magari sul letto mi tocca, è abbastanza l'ideale, capito? È tutto lì. Oh, io gli altri da 9.000 lo metto lo stesso in cucina, quando lo uso lo metto a 24 lo stesso, certo se raffredda, raffredda parecchio pure, infatti lo uso a 24, lo uso e va benissimo perché so che raffredda e così sono anche gli altri. Anche in cucina ce l'ha di sotto, anche in cucina ce l'ha di sotto, e la cucina non è molto grande, però si sta bene acceso, quando accendi in cucina si sta bene, perché non si tocca, le alette si alzano di più, e per cui proprio a parte in terra non si tocca, capito? Tocca in aria, per cui raffredda tutta completamente. Infatti voi così vuole. No, io è abbastanza di gozzo, abusa. Le raffreddano benissimo, raffreddano. Sorry che hanno accendo lo morbido che sacca all'inizio, anche se non sacca. Noi ne attacco sempre uno da attaccare. Se dovessi per esempio essere acceso questo qua, poi che se ne fanno in cucina, questo lo segue da accendo quello in cucina, due insieme non è mai attaccato. Infatti bisogna fare così, bisogna fare, se no voglia. Già che fa, se lo metti a vento ti fa un sacco di condensa, ti fa, ma parecchio. Ma io non è che lo lascio molto a questo, capisco. Qualche volta è successo, a 4-5 ore, ma qualche volta, però massimo un'ora, un'ora e mezzo o di più, capisco. No, infatti io ce li ho tutti a 24, li ho messi. Cucina, in sala e in soggiorno sono tutti a 24. Noi accendiamo questo qua in questa cameretta e in cucina, quello in camera e in sala, e qualche volta l'accendiamo, ma raramente, ma quasi mai, capito? Perché facciamo il cucino in questa camera, ecco, per esempio. Siamo dopo pranzo, ci iniziamo in questa cameretta, e per cui, perché non si tocca il sole, invece in camera si tocca solo il giorno, capito? Mentre qua in questa cameretta la sera si tocca, c'è l'ombra, per cui stiamo facendo così. Dopo pranzo ci corichiamo qua, fino alle 8, ecco, fino alle 8 che abbiamo a pranzo, siamo qua. E allora accendiamo il cucina, capito? Infatti è così, tocca fare così, tocca fare, se no voglia. Forse tu quello di cane, se ce l'hai a 20, se si mettono a 24 ti fa meno condensa, ti fa, ecco cos'è. A me a 24 ma piano, dopo un'ora ma piano rovedone. No, io ce li ho tutti in canale allo scarico del tetto, hanno messo tutta, hanno fatto buca allo scarico del tetto, per cui i droni non li usiamo noi, in tutte le camere, anzi tutto qua, passano i canali vicino e hanno messo i canali, e fatti buco nel canale e si lascia lì il tubo, capito? Troppo giro toccava fargli fare al tubo, fargli fare troppo giro e non faceva, ecco cos'è. Allora gli ho messo un bidone da 20 litri, in un'ora mi era pieno. Quella cazzo, da 12, cazzo, quelli che fanno, perché è stata una potenza enorme, capito? Ma noi non è che la spendiamo un sospetto, massimo un'ora, un'ora e mezzo. Però la condensa gli attirava dentro il canale dello scarico, capito? Sì, no, uno ce l'ho, quello di sera ce l'ho nello scarico del tubo della grondaia, ce l'ho. E gli altri devo fargli fare tutto il giro, devo fargli fare. Anche l'altro ce l'ho fuori, quindi scarica fuori, scarica. Io tutta qua, tutta scarico del tetto, capito? Assumo lo scarico del tetto, tutta qua, per cui di lui non se ne va bene, già scarica tutto fuori, tutta qua, capito? Perché io ci scarico vicino, per cui perché il tubo e me l'hanno collegato allo scarico, capito? Così faccio. Io ho messo il tubo dentro il bidone e va benissimo. Quando è pieno mi rimbiuto, vado a girare una testa. Ehi, l'importante è che si abbia fatto uno, va. E per cui... il inferno quasi mai li attende, quasi mai, ma in realtà se si fa di caldo, io soffro il caldo, per cui in realtà se li attendo, ma l'inferno a caldo no. Io già l'accendo, a buia c'è, qua mi quello di cucina l'accendo, accendo prima la cucina la cosa, sto usando il forno, e poi l'accendo. Perché se in cucina magari non sono tutti, è chiaro, allora anche a caldo accendiamo la stessa anche noi in cucina, ma per accendere un'oretta, non di più, ma poi al rifresco, perché la cucina non è molto grande la notte. Magari tu ci avrai la cucina un bel grande, la mia è piccola la cucina. Anche la mia è piccola la cucina, direi che sia assai mamma, no? La mia è la cugina. Ci siamo in quattro seduti, già ci siamo, però non è solo grande. Ma va bene, come quando accendo quello della cucina va benissimo. Perché non si tocca alla parete, tocca alla parete, per cui il fresco o il caldo, quando si riempie tutta le pareti della cucina, sta il caldo, capito? Però alle persone non tocca proprio direttamente. Mentre qua invece questo qua mi tocca proprio, quando sono caricato mi tocca le gambe. Non salgono le alette e più in alto, capito? Sarebbe stato ideale, sarebbero senza più in alto alla parete. Però tocca proprio, come dico io. Oh no, in cucina c'è il sole, anche qua in camera, infatti la bugia è passata un dito, ha lasciato un che entri un po' di fresco. Ci sta bene, ci sta. Oh, che in cucina c'è il sole adesso. Il sole si tocca in sala, in camera, tutte e due, perché sono proprio di fronte, che sono stati facciata, capito? Anche in tutta la divisione mi tocca sopra. Cazzo, chi è adesso in sala o in camera, c'è un caldo, non ci dico niente. Mentre qua poi queste tolgono il tocco, e tocca solo la mattina fino alle 10, dopo le 10 è l'ombra, capito? Però quando c'è caldo ti tocchi di tutto, c'è caldo. Ah, non è che già si respira abbastanza lento, intanto entra la fresca, gli ha dato bene. Vabbè Gianmarì, io ti lascio, perché devo andare in cucina e mangiare. Ok, ci risentiamo domani se tutto va bene. Ma che domani non ci dovrebbe essere acqua. Ehi, già lo so, chiusi, che abbiamo già preferito noi questo. E già lo sappiamo. Grazie a te, d'accordo, un buon provvedimento, saluto il caso, sentiamo, dai. Ciao. Ciao Gianmaria, arrivederci.